nostro impero, ed io co sola in petto della gloria al lavoro, e che non vinco per abusarmi delle mie vittorie, vi rendo il vostro trono. Io vi dichiaro imperator, potrete partire a vostro grado. Vite a Bisanzio. Ah, mio signor, è grande il dono e il donatore, ma... Il rifiutate? No, signor, ma si presto dividermi da voi. Teneva impaziente la brava di regnare, ma il vostro indugio deve servirvi a vincere un nemico. Qual nemico rimane? Signor, tutto il mio sangue! Un vettuoco di sangue per debellare un prigionier che solo ha il suo orgoglio indifeso. E questi l'ottomani a voi s'aspetta a mitigare le sue furie e farlo male. Io offro pace, amistade, infine voglio che di nostra unione sia vostro il merito. Offrite a quel superbo la mia man per suo figlio, e questo sia il guiderdon dell'amicizia mia. Al fiero colpo, Irene, signor, che già s'avanza al vostro letto. Non deve essere mia sposa! Scegliere una mano che mi sia carata, e a me solo la detta. La destino per voi. Per me, signore? Per voi. Non posso fare scelta migliore, né voi migliore acquisto. Non chiedo ricompensa che il contento d'un padre, perché solo da una figlia maggior trovo. Da voi lo spero, e non lo spero in vano. Se pensarete che l'impero di me, a me due con